Mix 24 di Giovanni Minoli. L'ultima crisi diplomatica tra un paese dell'Unione Europea e il governo di Ankara si è innescata ufficialmente con la decisione del governo olandese di non autorizzare l'atterraggio del volo di Stato del ministro degli esteri turco. Tensione alle stelle tra Turchia e Olanda. La ministra turca della famiglia e delle politiche sociali è stato impedito di raggiungere il consolato turco a Rotterdam. Nazisti e fascisti, l'Olanda pagherà per la sua condotta vergognosa. Hanno il sapore della minaccia le dichiarazioni di Recep Erdogan in piena campagna elettorale per il referendum del 16 aprile. Pronta la replica del premier olandese Mark Rutte, da Erdogan affermazioni folli. L'escalation di tensione tra Turchia e Olanda potrebbe coinvolgere e trascinare l'Europa intera. Anche paesi vicini come la Danimarca hanno invitato il premier turco Binali Yildirim a rinviare la visita di Stato prevista per il prossimo 20 marzo. È questa l'Europa all'interno della quale si collocano le crisi diplomatiche tra la Turchia e mezzo continente. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Buongiorno Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, editorialista della Stampa. Ecco Mingardi. Buongiorno. Che significato ha il voto in Olanda per l'Europa? Il voto in Olanda per l'Europa, se veramente vedrà una forte affermazione di Wilders, quindi una vittoria dei populisti, non avrà probabilmente un significato particolarmente rilevante sotto il profilo della stabilità di governo, perché quel partito non riuscirà a governare e non sarà parte neanche della coalizione che andrà a governare il paese. Ma però sicuramente è un paese talmente noto per la sua reputazione di tolleranza e di apertura che questo sorprende naturalmente. Ecco. Ma perché lo scontro con la Turchia ha assunto queste dimensioni così forti? Perché da anni in realtà in Olanda c'è un problema nella percezione di un'immigrazione che continua a crescere, no? Ricordiamo l'assassinio di Pim Fortuyn nel 2002, e quindi non è un fenomeno nuovo in senso assoluto. È lo sviluppo di una cosa endemica, insomma. È lo sviluppo di qualche cosa che era già lì, che covava, e la necessità del governo anche di provare un po' facendo i muscoli a contenere la crescita elettorale di Wilders, sicuramente. Ci sono anche probabilmente dei problemi di ordine pubblico reali, che sono poi la questione di fondo per la quale questa visita non è stata accettata. Ecco, Mingardi, senta cosa mi diceva durante un faccia a faccia qualche anno fa Gheddafi a proposito della Turchia in Europa. Qual è il rischio della Turchia in Europa? No, io non ho detto che la Turchia non deve entrare a far parte dell'Europa. Ho solo spiegato le conseguenze che ci saranno con l'entrata della Turchia. E cioè? Cioè faccio una previsione su quello che succederà dopo l'adesione della Turchia. Qual è il rischio? Per quanto riguarda il mondo islamico, anche gli estremisti islamici gioiscono per la possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea. Questo è il loro cavallo di Troia. Io sottolineo soltanto le conseguenze dell'entrata del cavallo dentro Troia. Questo era Gheddafi che faceva una profezia. È una profezia che ha qualche fondamento. È una profezia che piace a Wilders sotto alcuni aspetti, perché poi la questione della Turchia in Europa è quella sulla quale comincia quell'avventura politica. C'è anche il rovescio della medaglia, però. Cioè, tenendo la Turchia fuori dall'Europa, noi siamo andati in qualche maniera ad aiutare gli sviluppi attuali, no? Quindi con Erdogan che diventa sempre più potente, col suo spostamento diciamo così su altri assi geopolitici, ogni medaglia ha il suo rovescio. Certo, ecco, ma Mingardi, dire Olanda vuol dire anche dire Germania, cioè la Germania rischia di fare come l'Olanda? Sono due sistemi elettorali, una situazione troppo diversa per paragonarle sul serio. Cioè, qui abbiamo per forza a che fare con un governo di coalizione. Sì. Avremo dei partiti che sono lì, che si disputano la prima posizione tra il 17 e il 15%, per intenderci, 28 simboli sulla scheda elettorale. Cioè abbiamo 28 partiti in concorrenza in Olanda. 28 partiti in corsa, e i maggiori stanno tra il 10 e il 17%. Una cosa però che veramente è sintomatica di una situazione non solo olandese è l'appassimento dei partiti tradizionali della sinistra. Il Partito del Lavoro olandese, che una volta era il pivot del sistema, adesso non entra neanche nelle cronache giornalistiche che all'Olanda dedicano gli altri paesi. Senta Mingardi, l'Olanda è un piccolo paese sul piano della sua dimensione geografica, però molto importante sul piano economico. Perché la destra nazionalista oggi è così forte in un paese che è così aperto? È un paese importante sul piano economico perché unisce due cose. È un po' il sogno europeo in miniatura, perché è uno Stato sociale molto interventista, molto presente, sì, e nello stesso tempo è anche un'economia molto aperta. Credo che l'Olanda sia, appunto, il 7° sì, paese al mondo per libertà economica, ed è un paese che cresce ancora al 2%, valori che noi veramente ci sogniamo. Sì. L'immigrazione, nel momento in cui continua a crescere, crea un problema di percezione a chi fa parte di questo club dello Stato sociale, no? Certo. Soprattutto quando uno Stato sociale estremamente generoso. È difficile immaginare un paese che abbia frontiere aperte da una parte, ma dall'altra anche uno Stato sociale molto generoso, perché chi ne beneficia oggi ha la percezione che gli immigrati si spostino lì per quella ragione, per prendere, per così dire, un biglietto gratuito, ecco, però, per le prestazioni del welfare. Ecco, però Mingardi, tutto questo riformismo così aperto, come diceva lei, ha un sistema politico folle, perché gli olandesi dovranno scegliere tra 28 partiti, stanno peggio che in Italia. Però è anche un sistema politico che a suo modo funziona. L'Olanda è un paese che è riuscito a fare riforme impensabili in altre realtà, per esempio una riforma della sanità che utilizza strumenti di mercato, cioè la concorrenza tra le assicurazioni, per garantire l'universalismo del welfare. Sì. Ed è riuscita a farla a modo suo, cioè con 10 anni sostanzialmente di gestazione in un sistema così intensamente pluralista. Ma è un po' la storia di quel paese che lo rende quello che è. Quello particolare. Come è intervenuta però la NATO per chiedere di allentare la tensione tra Olanda e Turchia. È il segno che ci sono timori, paure vere per la permanenza della Turchia nell'Alleanza Atlantica. Beh, direi di sì. Ecco, ma secondo lei il voto olandese potrebbe fornire carburante alla Le Pen in Francia? E beh, sicuramente se si viene a creare una situazione nella quale sembra che tanti più paesi stiano premiando esponenti politici che hanno un profilo tutto sommato simile, anche se poi fino a un certo punto, perché Wilders è ferocemente anti-islamico, vorrebbe proibire il Corano e chiudere le moschee, ma nello stesso tempo è su questioni come welfare e diritti civili perfettamente, certo, allineato con il mainstream olandese. Ecco, ma beh, se c'è la percezione che il vento soffi in quella direzione, chi si mette su quella rotta lì ne trae beneficio agli occhi degli elettori, diventa meno estremista, certo, agli occhi degli elettori. Grazie Mingardi. 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Ecco Pietrangelo, è un quadro abbastanza polverizzato quello della società olandese, sembra quasi anarchico, anche se Mingardi dice che in realtà poi funziona. Beh, l'Olanda è la quintessenza dell'occidentalismo, e l'Olanda più di ogni altra realtà in Europa è quella che ha rappresentato proprio la perdita di radicamento di un'identità. E quello che capita con Wilders, se posso permettermi, vorrei approfittare della tua definizione destra nazionalista, tutto è fuorché destra nazionalista. Lui e i suoi compari, i suoi degni compari in tutto il mondo, non sono altro che i servitori solerti del globalismo, del peggiore globalismo, che è la negazione dei valori della destra. Senti Mario, ma sì, l'Olanda in qualche modo offre, insomma, rappresenta un'inquietudine di fondo in Europa che è sempre più incontenibile in sostanza. Sì, infatti il problema non è se Wilders, come giustamente diceva Mingardi, il problema non è se Wilders va al governo oggi e non ci andrà domani, appunto. Il problema è quello di un vento della storia che soffia in direzione contraria rispetto al mainstream delle opinioni corrette, diciamo così, e anche di quella dell'ortodossia politica, e siamo solo all'inizio di quello che io penso che sia un cambio totale dello

Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Eccola. Ti senti solo su questa strada e pensi al sogno che avevi un tempo. È tanto peso, tanto dolore, tra il bianco e il nero di una stagione. Ti senti solo su questa strada, ti hanno calciato, ti hanno tradito, ti hanno ingiuriato e calpestato. E allora? E allora la fermata Cornelia in viaggio per Rebibbia, c'erano come due gruppi in transito. In un vagone intriso di dolcezza e preoccupazione e un altro invece tutto pieno di grugni inquieti. Avvocatesse nel primo, imputati, loro clienti nell'altro, innamorati tutti di un disperato amore. Ha chiamato Capucin, ha voluto questo brano per Tom. Con un messaggio, mi sono rapata a zero per te. Disperato amore, Z0 Alfa. Fantastico questo atto di amore di Capucin. Straordinario, Mario, infatti... hai visto che roba? Mio, è divertente. Quando si ama. Beato lui. Vai con la bolla, all'amore. Mario. Va bene, vai, George Jackson ci sta, On Your Radio pure, vai. Allora, Giovanni, tu sai che la Corea del Nord ha dichiarato guerra agli Stati Uniti, non nella maniera ufficiale che noi pensiamo, no? Con non titolo... con gli ambasciatori. Sì, non con gli ambasciatori, i titoloni dei giornali, war, no. Però, insomma, lo svitato dell'Asia, che è Kim, non mi ricordo più cosa, ha deciso ancora una volta di far parlare di sé. Ci sono delle esercitazioni navali in corso sul Pacifico e una portaerei statunitense, la Vinson, ha raggiunto le forze della Corea del Sud. Apriti cielo, la Corea del Nord ha spiccato un comunicato della difesa che dice sostanzialmente che chiunque violi la sovranità, la dignità del paese sarà colpito in maniera spietata, via aria, via terra e via mare. E quindi ora... dici che arriverà l'incidente lì? Sì, certo. Guarda, ma non è il problema, non è il se, è solo il quando. E quando? La Corea si prepara tranquillamente a sparare nucleare, purtroppo. Certo. First nuclear strike, quello che non si dice, l'indicibile. L'indicibile. Ahimè. Salamino! Lotti vuol dire fiducia. Domani sarà di certo bocciata al Senato la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle contro Luca Lotti, che è ministro dello sport nel governo di Paolo Gentiloni Silveri, nonché ben altro, ben più che altro. Tu sei una cosa grande. Giglio del Giglio Magico, primo nel cuore di Matteo Renzi, vero e proprio lancillotto di tanto Re Artù, quasi paride, dico tanto Achille, più veloce, però azzoppato, Lotti rischia di essere il tallone perché sono gli scissionisti di DP, ossia Democratici Progressisti, a presentare una mozione per chiedere non tanto la sfiducia, no, hanno tantissima fiducia in lui, bensì svuotarne le deleghe oppure le dimissioni. Figura. Appena sarà messa in calendario, prossima settimana si ballerà non poco. Miguel Gotor, infatti, muove una pesante accusa contro la gestione familistica, clientelare, quella del potere sommata a una doppia morale e a un garantismo a intermittenza. Terribile invece l'argomentazione degli scissionisti, Giovanni, terribile, terribile. Allora dice, esiste una questione morale che prescinde dall'archiviazione. Questa vicenda ci costringe ad affrontare un nodo fondamentale per la politica. Non possiamo lasciare che esista un minimo dubbio sull'integrità di un esponente politico. Qui le cose si mettono si male. Si complicano molto. Molto, perché la ferocia dell'ex minoranza PD è inaudita. Svuotarne le deleghe, per esempio, significa non occuparsi di calcio, di atletica, di box. ma ridimensionare le sfere di influenza, per esempio dedicarsi alle bocciofile, al salto della rana, a quello della certo. quaglia, non però i canguri, no, perché poi, per dirla con Aldo Busi, sarebbero C e canguri, e quindi non essere più, come è stato fino a oggi, il padrone del destino dei giornali. Occhio il braccio armato di Matteo Renzi nelle redazioni. Lotti, insomma, rischiano un poco perché gli ex compagni non mollano, non mollano, no. E infatti... Però scusate, scusami Giovanni. Dimmi. Scusami, Mario, scusate. Controordine, compagni. Contro. Quella dura dichiarazione antigarantista non è di Miguel. Di chi è? Bensì... no, ho sbagliato, scusate. È proprio di Matteo Renzi quella dichiarazione. No. Eh sì, perché lo disse a suo tempo contro l'ex sindaco di Rignano, Massimo Settimelli. E vabbè, comunque non vale nulla, nulla, nulla rispetto a Lotti, perché questo è... Diciamocela tutta, dai campi di calcio all'editoria e al CIPE c'è qualche differenza. Un pochino sì. Insomma, mi sembra un po' comunque, ma vabbè, non, lasciamo perdere. Tanto però, dai, vai con un'altra lui. Bolla, Mario. Vai, va. Miseria italiana. Allora. Dai, il super classico, vai. Giovanni, sì. Allora, guarda, io non voglio più occuparmi di cose italiane, sono di una tristezza infinita. Non sono tanto allegre, no, vero? No, Pietrangelo insiste là. Nel mondo, là fuori, succedono delle cose meravigliose, nel bene e nel male. Per esempio? Ma per esempio l'Arabia è in viaggio, il re d'Arabia, Salman, è in viaggio per l'Asia, non a caso parliamo di Asia, cioè il centro del mondo, insieme a Washington, vediamo se rinasce o meno, e Salman farà tappa a Tokyo e a Pechino, a far che, tanto con una delegazione di 1000 persone, segno che vuol fare qualcosa di serio, e quel che vuol fare è cercare di vendere non solo il petrolio ma anche il paese, cioè rendere l'Arabia un luogo dove investire per le attività economiche. L'Arabia Saudita ha presentato l'anno scorso, se non sbaglio qualche anno fa, un piano strategico per cambiare completamente l'economia del paese, cioè da totalmente dipendente dal petrolio a un po' di manifattura, un po' di turismo, insomma diversificazione e disegno di appunto un futuro diverso. È una strategia appunto della nuova politica saudita. Funzionerà? Tutti si chiedono questo. Una cosa è certa: il petrolio. Beh, prima ma senza o poi, il petrolio. Senza il petrolio non fanno niente. Come non pagano? Ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Però è un tentativo evidente di cambiare. Segno che comunque anche loro sanno che prima o poi. Molto poi, non prima, diciamoci la verità. Certo. Però l'economia imperniata solo sul petrolio finirà. Canzoniere! La democrazia, questa parola affatata, questa parola di luce, questa parola illuminata, questo lampadario di parola, il mondo, questa democrazia che dice, questo uomo con tanto di barba, che parlano di questa democrazia, cos'è? 800 24 0024, c'era la delega all'editoria 349 238 6666, per chi vuole inventare. Intanto pubblicità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. vi presenta Mix 24. Per me il 77 è stato un momento di libertà assoluta. Il 77 per me è già dal marzo, è la fine di qualche cosa, è una fine dolorosa. Movimento non era nato per fare la guerra. Movimento era nato più che altro per produrre una cultura diversa. La grande rabbia e l'estremismo politico, ma anche le radio libere e la controcultura, sono le due anime del 1977, l'anno della più grande contestazione dopo quella del 68. 40 anni fa, l'anno si apre con una protesta nei principali atenei italiani. I provvedimenti di riforma previsti dal ministro Malfatti vengono contestati da studenti e alcuni docenti. È un regresso improntato alla discriminazione di classe, la critica. A partire da Palermo, il 20 gennaio, gli studenti occupano le facoltà bloccando l'attività didattica. A Roma, colpi di arma da fuoco vengono esplosi per tutta la prima settimana di marzo. Ma è a Bologna che cade la prima vittima. L'11 marzo militanti irrompono in un'assemblea di Comunione e Liberazione. La polizia interviene per riportare l'ordine, carica e infine spara. Muore Francesco Lorusso, 25 anni, membro di Lotta Continua. Bologna si trasforma in un campo di battaglia con l'intervento dei mezzi blindati, ma gli scontri proseguono anche nel resto d'Italia. Seguono mesi difficili, la violenza tocca le grandi città, facendo numerose vittime. L'anima creativa del 77 si spegne, inizia la fase più dura degli anni di piombo. Ecco, dopo il giornale radio raccontiamo appunto la storia di un anno turbolento e pieno di contraddizioni, il 1977. E adesso con il professor Roberto Bernabei, come sempre, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Lancet, dicembre 2016. Strategia conservativa o aggressiva in pazienti ultra ottantenni con infarto o angina instabile. Hai 80 anni e ti viene un infarto o un'angina instabile, che è quella forma di malattia coronarica più seria che viene subito prima dell'infarto. E che si fa? Prescrivere la sola terapia medica ottimale, quindi una serie di farmaci per bocca, ad evitare i rischi di un trattamento aggressivo, cioè angioplastica, stent o rivascolarizzazione con bypass. Insomma, è un problema di bilanciamento di potenziali maggiori successi che l'intervento aggressivo ti può dare verso potenziali maggiori rischi. Allora è stato studiato l'effetto in queste due patologie, infarto e angina instabile, in quasi 500 ultra ottantenni, metà assegnati all'intervento aggressivo che portava all'angioplastica, all'eventuale stent, al bypass, o l'altra metà assegnati all'intervento conservativo, la semplice terapia medica. Nel follow-up, il 40% di quelli trattati in modo aggressivo, cioè con angioplastica e bypass, ha avuto un infarto, contro il 60%, cioè molti di più, di quelli con la terapia medica. E basta. Anche in sequenza, la necessità di fare poi interventi urgenti di rivascolarizzazione, di bypass, è stata assai maggiore in quelli che avevano avuto un trattamento conservativo con solo terapia medica. Quindi l'età non è più un limite, bisogna andare avanti, bisogna sottoporsi a questi trattamenti più aggressivi. Immaginatevi naturalmente quanto questo possa costare alla collettività, perché è evidente che gli ultraottantenni sono sempre di più ed è evidente anche che questi interventi hanno un costo puro che è assolutamente elevato, perché si tratta di mettere in campo tecnologie e manualità super professionali. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi non aspetta l'applauso del mondo, non ha bisogno di fingere, perché sa di avere stile. Nicolò Fabi è Non è. È una passione giocosa, è un buon sentimento, è uno sguardo e un pensiero che non si riposa, è la vita che accade, è la cura del tempo, è una grande possibilità. Non è una sfida, non è una rivalsa, non è la finzione di essere meglio, non è la vittoria, l'applauso del mondo di ciò che succede, il senso filo di un aquilone, è un equilibrio sottile, non è cosa ma è come, è una questione di stile, non è di molti né pochi, ma solo di alcuni, è una conquista, è una necessità, non è per missione, ma nemmeno per gioco, non è che ti importa, non è tanto è uguale, non è invecchiare cambiando canale.